Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La vittoria di Musumeci è la vittoria dei moderati, dei cittadini che credono nella possibilità di un futuro migliore. La Sicilia era di fronte a un bivio, la nostra rivoluzione positiva o la rabbia inconcludente dei 5 Stelle. La stessa sfida riguarderà nei prossimi mesi la nostra Italia. E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il redivivo, resuscitato e sempre in pista Silvio Berlusconi, che così commenta la vittoria ormai, diciamo, lo spoglio praticamente completo delle schede, dei voti in Sicilia per la vittoria del candidato al centrodestra Nello Musumeci. E quindi dice questo servirà poi anche per la nostra esperienza per la campagna elettorale, per le politiche che ci saranno in primavera. Naturalmente questo è il traguardo a cui un po' tutti guardavano già prima di queste elezioni, i vari partiti, le coalizioni. Ovviamente questo sarà l'argomento principale di questo inizio di settimana di Effetto Notte. Parleremo anche ovviamente delle elezioni a Ostia, al 10° municipio di Roma, dove ci sarà il ballottaggio tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra. Intanto poi parleremo anche di quello che invece sta avvenendo a Torino, questa inchiesta. Ci sono 20 indagati sui fatti tragici di Piazza San Carlo dello scorso 3 giugno, e su questo, in questa inchiesta, sono coinvolti, indagati anche il questore di Torino e la sindaca Appendino. Insomma, come sempre, tanti gli argomenti, piuttosto intensi anche questa sera. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666, che è il numero per messaggi e WhatsApp. Prima di tutto, prima di approfondire questi temi, naturalmente la sintesi della giornata. Elezioni siciliane, la regione va al centrodestra, Berlusconi esulta, sconfitta del PD, 5 Stelle non vincono e parlano di vittoria contaminata. Ed è polemica tra Renzi e Di Maio che cancella il confronto TV. Torino sono 20 gli avvisi di garanzia per i fatti tragici di Piazza San Carlo, ci sono anche la sindaca Appendino e il questore Sanna. La strage del Texas, il killer che ha ucciso 26 persone, tra cui una dozzina di bambini, aveva litigato con la suocera, gli negarono il porto d'armi. Pensioni, il tavolo di discussione riprende domani, la leader della CGIL Camusso parla di vuoto pneumatico per Confindustria, è positivo che il governo non ceda sull'età pensionabile. G7 della salute, ha raggiunto un compromesso, c'è l'accordo sulle azioni da prendere. Partiamo quindi dalle elezioni in Sicilia. Spoglio praticamente è concluso, il candidato del centrodestra Nello Musumeci risulta il vincitore di queste elezioni col 40% delle preferenze. Sarò presidente di tutti, ha detto Berlusconi. Lo avete sentito prima, in Sicilia ha detto la vittoria dei moderati contro il ribellismo e rilancia sulle elezioni nazionali. Poi invece per il Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri ha preso il 34,7% e il movimento parla di vittoria contaminata dagli impresentabili. Netta sconfitta poi per il candidato del PD Fabrizio Micari, che prende il 18,5%. E il presidente del Senato Grasso accusa i Dem di essere patetici quando imputano al suo poco coraggio il risultato negativo, col fatto che si è sfilato da possibile candidato alle elezioni in Sicilia. Claudio Fava poi è al 6,2%, l'indipendentista Roberto La Rosa al 0,7%. Tra poco naturalmente torniamo per un'analisi di questo voto. Intanto botta e risposta a distanza tra Di Maio e Renzi. L'ex presidente del Consiglio ha garantito la sua presenza domani in TV. Sperava in un faccia a faccia con il leader 5 Stelle Matteo Renzi per dare una scossa ad un elettorato messo all'angolo dalla battuta d'arresto subita in Sicilia e ad Ostia. Di Maio scappa, dice allora Renzi. Mi spiace pensare che gli italiani rischino di essere guidati da un leader che è senza coraggio, che ha paura di confrontarsi. Il segretario PD torna quindi ad ammettere la sconfitta, ma a chi lo critica ricorda: chi è il leader lo decidono le primarie, non lo decidono le correnti. Il centro-sinistra diviso perde, comunque la considerazione dentro fuori il partito, ma non è ancora l'ora del dialogo. Lo sconfitto Micari punta il dito su MDP. È stata una battaglia esclusivamente contro di noi, esclusivamente contro Renzi. Da articolo 1 MDP Scotto replica. Il PD schianta scegliendo l'alleanza strutturale con Alfano e lascia il campo a Berlusconi e a Grillo. Sullo sfondo la polemica su Grasso: non si è voluto candidare, dicono alcune voci dal PD. Il presidente del Senato, attraverso il portavoce, però replica: il no alla candidatura è stata per motivi istituzionali ed è comunque patetica la scusa di imputarmi la sconfitta in Sicilia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E si è votato anche a Ostia. Movimento 5 Stelle e centrodestra si contenderanno la presidenza del 10° municipio di Roma nel ballottaggio che ci sarà il prossimo 19 novembre. La 5 Stelle Giuliana Di Pillo è la più votata con il 30,21% davanti a Monica Picca di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia col 26,68%. E poi a Torino, dove sono stati notificati 20 inviti a comparire nell'inchiesta sui fatti di Piazza San Carlo durante la finale di Champions il 3 giugno scorso, nella calca di una folla impazzita morì, vi ricordate, una persona e ci furono più di 1500 feriti, ma la causa del panico resta per il momento ignota. Interessati dal provvedimento anche la sindaca Appendino e il questore Sanna. La procura dice sono polemiche gratuite quelle per cui le indagini non sono state rapide, cioè in realtà la procura sono state molto rapide. Poi ci colleghiamo anche con Torino. Il tema delle pensioni: prosegue domani il tavolo tecnico tra governo e sindacati, si discute di innalzamento dell'età e di lavori gravosi. Un confronto in salita, un'immagine evocata da tutte le parti in causa, soprattutto i sindacati. Il governo non vuole affrontare nell'insieme i temi della fase 2 sulla previdenza, relativi in particolare alle donne e ai giovani. Questo è quanto ha dichiarato il segretario confederale della UIL, Proietti. Ci propongono solo l'esame dell'aspettativa di vita, rispetto alla quale non hanno avanzato una proposta dettagliata. Proposta che dovrebbe arrivare nell'incontro di domani, per poi essere analizzata mercoledì. Che i sindacati chiedessero un approccio organico era noto, e questa sarà la posizione lunedì prossimo al tavolo con il governo. La richiesta minima era il blocco dell'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni dal 2019, almeno per i cosiddetti lavori gravosi e quelli usuranti. L'esecutivo si presentava invece con una proposta più modesta: escludere il 10% dei pensionandi dall'aumento automatico, il 10% di 170.000, il 10% di lavori gravosi. Dunque molto si gioca sull'aspettativa di vita e sulle categorie, per definire le quali ci vogliono dati e analisi approfondite, a dirlo il presidente dell'Istat Giorgio Alleva. Non solo le categorie, ma anche la possibilità di valutare il percorso lavorativo delle persone. È un tema che si può affrontare, ma va studiato. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a Roma proseguono le audizioni sulla legge di bilancio. Di vuoto pneumatico sulle pensioni parla la leader della CGIL Camusso. Sempre sulla previdenza si è espressa per Confindustria la direttrice generale Marcella Panucci. È positivo che nella manovra e che finora il governo sia riuscito a respingere le richieste in materia di età pensionabile, in quanto tali richieste, laddove accolte, avrebbero un impatto significativo sul deficit pubblico. Non altrettanto si può dire di alcune misure in materia di entrate. Pur riconoscendo l'impegno a recuperare risorse limitando l'aumento della pressione fiscale, uno sforzo enorme considerato il costo dell'annullamento degli aumenti già programmati delle imposte indirette, alcune misure rappresentano un passo indietro rispetto all'attuazione della riforma fiscale e altre rischiano di introdurre delle complessità a carico delle imprese che ci auguriamo possano essere eliminate nell'ambito dell'esame parlamentare. E ora spostiamoci sulle notizie dall'estero. Con la strage in Texas c'è anche la madre della suocera del killer fra le vittime della strage nella chiesa battista, appunto in Texas, lo rivela la CNN. In precedenza gli investigatori avevano riferito che il movente della strage era da ricercarsi in problemi familiari, in particolare il killer aveva manifestato rabbia nei confronti della suocera e che questa aveva poi ricevuto suoi sms minacciosi. Si era visto negato tra l'altro in passato il porto d'armi, il killer che ha compiuto la strage facendo 26 morti, il più piccolo, pensate, aveva 18 mesi. Sono una dozzina le piccole vittime del 26enne che ha fatto irruzione durante la messa in questa piccola chiesa battista armato di fucile d'assalto. Appare che avesse almeno 4 armi. E il presidente americano Trump dice non è un problema di armi ma il gesto di uno squilibrato. Negli Stati Uniti i morti per le armi sono in forte aumento, tra l'altro 11.000 omicidi nel 2016. Torniamo in Italia con il maltempo che, come previsto, si è spostato verso sud. Strade, negozi, cortili e cantine allagate, auto sommerse o ribaltate, traffico impazzito, squadre di vigili del fuoco in azione in tutta la città. È l'effetto del violento temporale che ha colpito all'alba la città di Reggio Calabria, mettendola in ginocchio. La situazione è più critica nella periferia sud della città, dove intere zone sono state sommerse, come Piazza della Pace, accanto allo stadio cittadino. Non c'è stata un'allerta meteo adeguata, lamenta il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che non ha quindi provveduto alla chiusura delle scuole. Allagamenti e disagi si sono registrati anche in Sicilia, in Campania, sul litorale laziale. Purtroppo la situazione meteo resta preoccupante. Da questa sera, infatti, una nuova allerta della Protezione Civile indica precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio forte su Emilia-Romagna, Marche e Umbria, con mareggiate lungo le coste. Dalle prime ore di domani, poi, i temporali dovrebbero colpire il Lazio, specie la parte sud, e di nuovo Sicilia, Campania, Basilicata e Calabria. Anche su queste regioni, dove viene valutata l'allerta arancione, sono previsti venti forti fino a burrasca e possibili mareggiate. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si è concluso a Milano con un'intesa sull'impatto dei cambiamenti climatici, il G7 sulla salute. Sentiamo la ministra Lorenzin. Abbiamo affrontato tre temi di particolare importanza: l'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute delle persone e degli animali, la salute della donna e del fanciullo e la resistenza agli antibiotici. L'elemento su cui c'è stata una maggiore discussione è stato il tema riguardo all'impatto dei cambiamenti climatici. Da questo punto di vista, però, tutti abbiamo accettato il fatto che ci sia un fattore clima, un fattore che incide sia per quanto riguarda il clima, sia per quanto riguarda l'inquinamento, che incide sulla salute delle persone. Per chiudere parliamo di sport. Oddio, la prima notizia, insomma, diciamo sport tra virgolette, cioè, a proposito della cerimonia del sorteggio dei gironi della Next Gen ATP, parliamo di tennis, con modelle al posto delle urne ed è subito polemica, piovono accuse di sessismo sull'evento che ha aperto il torneo tra i migliori 8 tennisti under 21 in programma da domani alla Fiera di Milano, RO. Vergogna, ha scritto l'ex campionessa francese Amélie Mauresmoe. Nello show i tennisti hanno scelto ciascuno una modella camminando su una passerella. Le ragazze, alcune accennando mosse da spogliarello, hanno mostrato la lettera A o B nascoste sulla schiena o sulla coscia. In questo modo è venuto il sorteggio, visto che siamo anche nel clima giusto, da Weinstein in poi, diciamo, giusto per stare sull'attualità. Poi il calcio con l'Italia di Ventura, che si gioca tutto contro la Svezia venerdì a Stoccolma e lunedì prossimo a Milano, il doppio confronto che vale la qualificazione ai mondiali. Sicuro di sé il CT, che dice: un momento importante per me, per la mia storia, anche per i giocatori. Sentiamo. Oggi c'è la voglia di fare queste due partite, c'è la voglia di andare ai mondiali, noi andremo ai mondiali perché nessuno di noi ha mai preso in considerazione il fatto di non andare ai mondiali. Bene, allora questa è la sintesi della giornata, come sempre all'inizio. Ora ci aggiorniamo, anzi aggiorniamo chi sta viaggiando, chi si sta muovendo su strade e autostrade. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure attraverso i messaggi WhatsApp o SMS al 349-238-6666. Ringrazio Max da Vicenza. Poi c'è Clotilde, dice: è possibile che il PD non ha ancora capito che li fa perdere, chi li fa perdere, l'usurpatore, cioè intende Renzi, ma perché non lo sbattono fuori? Qualcuno invece dice che è proprio perché c'è Renzi che non è andata anche peggio. E tra poco ne parliamo. Poi un altro ascoltatore che dice: oggi abbiamo festeggiato con la vittoria del non la vittoria del centrodestra, ma per la fine del PD. Mentre un altro messaggio scrive: Trump dice non è un problema di armi, a proposito della strage in Texas, ma se le compri al supermercato, dice questo ascoltatore. In effetti continua a negare l'evidenza Trump. 11.000 omicidi soltanto nel 2016. Sentiamo tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchi di notizie, oggi in particolare sulle elezioni che sono state in Sicilia e poi in parte naturalmente anche ad Ostia. Ce ne occuperemo per la gran parte di questa puntata e poi naturalmente ci sono le altre notizie che vi ho ricordato nella sintesi della giornata e ogni tanto sapete che vi rammento quali sono i titoli principali. Tra poco quindi passeremo al racconto direttamente dalla Sicilia con due nostri corrispondenti e poi ci sarà naturalmente l'analisi del voto. Per i vostri messaggi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Floriano, a proposito delle elezioni siciliane, scrive: nessuna novità, tutto previsto, Fava meno di quando si era candidato da solo. In effetti Claudio Fava, insomma, non ha avuto certo un risultato lusinghiero. Quindi i titoli principali. Elezioni siciliane, la regione va al centrodestra, Berlusconi esulta, sconfitta del PD, 5 Stelle non vincono e parlano di vittoria contaminata ed è polemica tra Renzi e Di Maio che cancella il confronto TV che doveva esserci domani. Torino sono 20 gli avvisi di garanzia per i fatti tragici di Piazza San Carlo, ci sono anche la sindaca Appendino e il questore Sanna. La strage in Texas, il killer che ha ucciso 26 persone, tra cui una dozzina di bambini, aveva litigato con la suocera e gli negarono il porto d'armi. Pensioni, il tavolo di discussione riprende domani. G7 della salute ha raggiunto un compromesso, c'è l'accordo sulle azioni da prendere. E quindi soffermiamoci su queste elezioni tanto attese di ieri e diciamo che insomma lo spoglio c'è stato fino a poco fa, dovrebbe essere più o meno completato, un po' a rilento, diciamo un po' uno spoglio alla siciliana senza offendere nessuno, comunque elezioni siciliane che hanno visto ormai la vittoria chiara di Nello Musumeci, candidato del centrodestra e quasi matematicamente ormai presidente, con il 39,9%, insomma il 40% delle preferenze. Lo segue il candidato del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, con il 34,7%, poi Fabrizio Micari del centrosinistra con il 18,5%, Claudio Fava, MDP con il 6,1% e poi Salvo La Rosa con lo 0,72%. Ci colleghiamo subito con Catania, quartier generale del vincitore, con il nostro Nino Amadore. Ciao Nino. Ciao, buonasera a tutti. Quindi ormai diciamo è confermata, no, la vittoria di Musumeci, Nino? Ma direi proprio di sì, insomma a questo punto della giornata direi che Nello Musumeci si può dire è il nuovo presidente della regione siciliana. Vogliamo sentire subito la sua dichiarazione sul risultato che dice insomma di importanza nazionale. Questo è un risultato di rilevanza nazionale. Il centrodestra si ricompone e apre la strada ad un appuntamento politico importante che nella prossima primavera dovrà ridare un governo degno di questo nome all'Italia. Quindi, come si diceva, si è detto tanto, no? Sempre che le elezioni siciliane sono un po' un antipasto delle elezioni politiche nazionali, da lì poi si capirà che cosa succede a livello di alleanze, di strategie, eccetera. Nino, questo lo ha confermato anche il vincitore, no, Nello Musumeci. Ma guarda, questa era diciamo un po' la scommessa di questa campagna elettorale per il centrodestra, si è visto anche dal comizio, dall'intervento che Berlusconi ha fatto a Catania, poi dal tentativo del famoso patto dell'arancino, non si capisce ancora bene se spotto c'è stato, non c'è stato. Nino, ti stiamo sentendo un po' maluccio, non so in che punto sei esattamente. Ora mi sentite meglio? Molto meglio. Ok, sì. Non si capisce, dicevo, se sto patto c'è stato o non c'è stato ancora bene, il famoso patto dell'arancino l'altra sera a Catania. In ogni caso l'obiettivo per il centrodestra è quello di arrivare unito alle elezioni politiche, perché è chiaro, la Sicilia lo dimostra, che quando quando si presentano uniti hanno più possibilità di vittoria. Questa è stata poi la dimostrazione concreta. 5 anni fa il centrodestra era andato diviso alle regionali perché si era presentato anche Gianfranco Miccichè e avevano perso, non ce l'avevano fatta, aveva vinto Rosario Crocetta. C'è un'ulteriore conferma che arriva, c'è un'ulteriore conferma. Nino, forse ti stai ancora rispostando, scusami. No, sono fermo, purtroppo c'è una copertura un po' così. Male lì da quelle parti, visto che è così importante in questo momento. No. Nino, senti, ci racconti anche che personaggio è, da dove viene Nino Musumeci, perché mi sembra che Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, se n'è abbastanza attribuita il merito, perché praticamente è un uomo scelto da lei in primis. Ma sì, ora vicino alla Fratelli d'Italia. Nello Musumeci, così scherzando, si può dire è un vecchio camerata, cioè uno che viene dalla destra storica, dal movimento sociale, è stato segretario provinciale del movimento sociale, poi è stato anche presidente della provincia di Catania, dove tutti dicono, e io confermo, che ha fatto delle buone cose. È un uomo tutto d'un pezzo, una persona che ha fama di essere molto seria e soprattutto coerente con le sue idee, con se stesso. È stato esponente della destra, è stato anche sottosegretario al lavoro, se non ricordo male, insomma ha ricoperto nel tempo, negli anni, diverse cariche istituzionali e fino ad aprile era presidente della Commissione regionale antimafia, insomma, dove ha fatto un lavoro di approfondimento su una serie di questioni. Questo è Nello Musumeci. Cosa diversa ovviamente sono i suoi alleati, i deputati e chi si è candidato a sostegno di Nello Musumeci. Ricorderai la famosa polemica sugli imprenditori. Nino, scusa, ti sentiamo ancora male, purtroppo non è colpa tua, d'altronde la copertura non è eccellente dappertutto. Dicevi, questo è Musumeci, che fra l'altro anche un po' ha trattenuto le lacrime dicendo non posso gioire, penso a mio figlio morto. Questo è un aspetto, diciamo, della sua vita personale che ha ricordato, il figlio morto nel 2013 a soli 30 anni. Ma dicevi però diversi sono quelli che facevano parte della sua lista, gli altri... Sì, perché poi nelle liste, insomma, c'è stata anche la polemica sugli impresentabili, sì. il sindaco di Priolo che è stato arrestato nella campagna elettorale, qualche esponente catanese che è stato accusato di avere rapporti con pezzi di Cosa Nostra, insomma, della mafia catanese, insomma, una serie di personaggi che... Un po' controversi, diciamo. Un po' borderline, diciamolo in questo modo. E non solo loro, perché poi c'è il figlio di Franco Antonio Genovese, l'ex segretario del PD, ora passato con Forza Italia, che è stato anche condannato per lo scandalo dei corsi d'oro della formazione professionale. Infatti, mi pare che però il figlio abbia avuto un sacco di preferenze. Sì, perché il padre è una potenza elettorale a Messina, insomma, è uno che. Tradizionalmente la famiglia di Genovese è una famiglia elettoralmente molto forte. Nino, sentiamo per chiudere il collegamento con te, con Catania, anche che cosa ha detto Musumeci nel senso di quanto potrebbe durare la sua esperienza politica. Il secondo sogno sarà quello di dover restituire fra 5 anni a chi verrà dopo di me, perché fra 5 anni io lascerò la guida della regione siciliana, è quello di restituire a chi verrà dopo di me una terra normale, una terra libera da ogni zavorra, una terra lontana da ogni condizionamento esterno, una terra riappacificatasi con se stessa, una terra nella quale ognuno di noi deve trovare l'orgoglio di esserne figlio. Questa è un po', insomma, la conclusione, Nino. Adesso questa è la conclusione, lui lo aveva già detto, è l'ultima volta mi candido per governare la Sicilia e poi lascerò. Lo ha confermato nel discorso che ha fatto stasera, e l'altro, diciamo, pezzo di discorso che ha fatto è quello di restituire la fiducia ai siciliani, rivolgendosi a quei siciliani, quasi il 55%, quasi il 55% che non sono andati a votare. Infatti, possiamo dire, Nino, l'hai ricordato, hai fatto bene, che l'astensionismo è stato il primo partito in Sicilia, perché la gran parte non è andata a votare. Grazie Nino Amadore da Catania. Arrivederci. Ciao Nino. Arrivederci. Buon lavoro. E da Catania ci spostiamo a Palermo, dove c'è la nostra Elisabetta Fiorito. Speriamo che sia meglio la ricezione da quelle parti. Betta, sentiamo? Speriamo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì. Senti, Betta invece è il quartier generale di Micari, quello che era il candidato del PD, però insomma era già, diciamo, una sconfitta annunciata, l'hanno riconosciuto gli stessi esponenti del PD, Faraone in primis, no? Beh, insomma, pesa nel centro-sinistra, pesano le divisioni tra Micari e Fava, quindi il centro-sinistra è andato diviso, non ha convinto gli elettori, non ha convinto anche gli elettori questa discontinuità con Rosario Crocetta, che comunque è stata considerata una gestione della Sicilia non soddisfacente, e quindi ci sono stati due o tre elementi. Il PD che non veniva visto come discontinuo nei confronti di Crocetta, Micari che era separato da Fava, che ha fatto sì che comunque il risultato non fosse assolutamente soddisfacente. Dall'altra parte esulta invece il Movimento 5 Stelle che come secondo partito, cioè come secondo arrivato Cancelleri, Giancarlo Cancelleri, è però il primo partito della Sicilia. Tutto questo ovviamente ha dei riflessi sicuramente locali ma molto nazionali, perché poi abbiamo visto che la prima mossa è stata quella di Luigi Di Maio di far saltare il confronto TV con il segretario PD Matteo Renzi, che doveva esserci domani sulla 7, no? Perché il leader del Movimento 5 Stelle ritiene che Matteo Renzi non sarà il suo competitor alle elezioni politiche. Cosa vuol dire? Probabilmente non sarà il candidato premier del centrosinistra. Sappiamo benissimo che Renzi è un candidato che divide. Adesso gli ultimi gossip danno Renzi come candidato del PD e Grasso come candidato della sinistra, in modo tale che poi i giochi si facciano dopo le elezioni. Questo però sappiamo che non avvantaggia assolutamente il centrosinistra. Si vede a questo voto locale, che è molto molto particolare, però anche come un possibile specchio di quello che potrebbe succedere alle politiche, anche se Luigi Di Maio nel Movimento 5 Stelle ha detto che loro puntano al 40% a un governo 5 Stelle, e spera che questo voto siciliano poi tiri un po' la volata a Palazzo Chigi. Sarà difficile, perché sappiamo benissimo che il Movimento 5 Stelle poi non si allea con nessun altro. Però è vero pure che il voto di lista è comunque ragguardevole. Ecco, ricordiamo che è un partito che sì, comincia a avere delle leggere correnti, però comunque è il primo partito a livello nazionale, mentre gli altri stiamo sempre parlando di coalizioni. Ecco, questo è sicuramente il dato rilevante. E è chiaro che c'è molto malumore nel centrosinistra, ma era un dato abbastanza spontaneo. Atteso. Anzi, su questo vogliamo sentire proprio Faraone, lo citavo prima, che diceva insomma che era una sconfitta questa annunciata, lo si diceva da un po'. È una sconfitta, diciamo, abbastanza annunciata dal momento stesso in cui alcune forze politiche che con noi dovevano fare questo percorso, e anche alcune personalità, faccio riferimento a Grasso, a cui avevamo chiesto ad esempio di candidarsi a Presidente della Regione, hanno fatto un passo indietro, hanno deciso di fare un percorso diverso. Noi già sapevamo che la situazione era abbastanza compromessa e che serviva un miracolo. Un miracolo serviva, quindi c'era consapevolezza. Tra l'altro Renzi, che oggi era stato inseguito dai giornalisti uscendo dalla Stanford University di Firenze, dove ha tenuto una lezione, ha detto non parlo, quindi per il momento non vuole fare commenti. No, però, vediamo domani, domani dovrebbe essere comunque ospite della 7, no? Sì, c'è da dire che allora Grasso non solo non si è candidato, poi la settimana prima delle elezioni, all'indomani del Rosatellum, si è pure dimesso dal PD. Detto questo, il voto anche di Fava però non è stato successo, tutt'altro. Quindi c'è stato un tentativo di MDP, di tutte le sinistre, di forzare un po' la mano, che però poi non ha provocato questo grandissimo successo di Fava. Quindi anche qui, se non si mettono d'accordo i fuoriusciti dal PD e il PD, sarà difficile che poi queste elezioni politiche possono portare un buon risultato per il centrosinistra. E c'è questa, oggi Micari diceva in realtà da Roma MDP i fuoriusciti hanno voluto comunque mettere Fava come candidato perché volevano contrastare Renzi, no? E bisogna capire, però è un gioco al massacro, e come al solito questo non è del tutto nuovo nel centrosinistra. Ecco, si potrebbe parafrasare tutto questo con una famosa frase di Nanni Moretti: continuiamo a farci del male. Ecco. Sì, chiaro. Grazie Betta Fiorito da Palermo. Grazie a voi. Ciao Elisabetta, buona serata. Adesso ci fermiamo, ci prendiamo una breve pausa. Voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Dice questo ascoltatore: sarò il presidente di tutti i cittadini. Questa frase ad ogni elezione non può mancare, indipendentemente dalla provenienza politica. rispondo, è vero, e dice l'ascoltatore, come mai questo rito, diciamo, è appunto una frase così di circostanza che si dice sempre, perché quando si è eletti chiaramente è una parte che ti elegge e si vuole subito mettere le mani avanti e dire e creare subito un più ampio consenso e rassicurazione, dire che si è il presidente, il sindaco, quello che volete, di tutti. Poi invece sulla strage in Texas, dice questo ascoltatore, a proposito di armi e omicidi in America, vorrei dire solo che gli 11.000 omicidi nel 2016, ma Trump era già presidente, non lo era, ma in realtà i suoi predecessori da un po' dicevano che volevano, in particolare Obama, porre un limite, no, alla facilità con cui si possono avere le armi negli Stati Uniti, mentre Trump continua a dire che non bisogna porre nessun limite, che non è un problema che riguarda le armi, questo di i soli 11.000 omicidi che ci sono stati nel 2016. Diceva un ascoltatore, no, nel 2017, il 2017 non è ancora finito, nella ricerca che hanno fatto è stato un bilancio dell'anno precedente. A tra pochissimo. Entra nel mondo radiofonico e televisivo con le nuove competenze 4.0. Master full time della Business School del Sole 24 Ore e Radio 24. Radio, TV e web content. Con diploma e stage. A Milano dal 27 novembre. Per candidarsi alle selezioni e borse di studio, www.radiomaster.ilsole24ore.com. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, se volete anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Allora, abbiamo parlato con corrispondenti, i nostri colleghi dalla Sicilia, da Catania, dove ha vinto Musumeci, quartier generale di Musumeci, candidato del centrodestra, e da Palermo, dove lo sconfitto Micari, insomma, dove la nostra collega a Palermo ha seguito la sua le sue, insomma, diciamo, le ultime ore di questo spoglio piuttosto lento delle ultime schede. Dicevamo che Musumeci esulta e sbarca ormai all'ARS, l'Assemblea regionale siciliana. Torniamo sulle elezioni e poi daremo anche uno spazio alle elezioni che siano state ad Ostia, il municipio, diciamo, municipio di Roma. Intanto, se non avete acceso puntualmente, vi ricordo velocemente le notizie più importanti. Per l'appunto Musumeci esulta perché sbarca all'ARS, ma il Movimento 5 Stelle è il primo partito, tra l'altro evoca il Movimento 5 Stelle brogli su queste elezioni, mentre il Presidente del Senato Grasso attacca i democratici perché lo accusano di essere lui il colpevole di questa sconfitta del Partito Democratico e vede intanto Pisapia nel pomeriggio. Di Maio annulla la sfida TV con Renzi che doveva esserci domani, Renzi dice lui scappa, io ci sarò, il 5 Stelle replica io sono il candidato premier, il PD non ha più un leader. E poi l'Istat che vede rosa, intanto va avanti la trattativa sulle pensioni, i sindacati insistono per un provvedimento che eviti l'innalzamento automatico dell'età, mentre Confindustria plaude al governo. E poi per quanto riguarda Torino, anche la sindaca Appendino e il questore hanno avuto l'invito a comparire per la tragedia di Piazza San Carlo. I killer del Texas, che ha ucciso 26 persone, aveva litigato con la suocera, gli negarono quando lo richiese il porto d'armi e poi si è suicidato dopo la strage. E l'Ilva, la FIOM, rompe a Genova e occupa la fabbrica. E poi una nuova tragedia del mare, 5 migranti morti. L'organizzazione non governativa accusa la Libia. Torniamo quindi sulle elezioni in Sicilia, ma anche quelle, dicevo, di Ostia. Prima di tutto va detto che il primo partito sia in Sicilia sia ad Ostia, come dicevamo prima, è quello dell'astensionismo, del non voto, come ci ricordava il collega da Catania. Solo il 46,76% ha infatti votato per l'elezione del presidente della Sicilia. Dice questo ascoltatore, a proposito delle elezioni, il dato vero, dice anche lui, è l'astensione dei cittadini. Stiamo cominciando forse a capire che è l'unico sistema per delegittimare una classe che dovrebbe rappresentare e cercare di migliorare la vita delle persone normali e invece non fanno altro che autoreferenziarsi. Io non credo che l'astensionismo sia però un modo per delegittimare. Cosa dici, Barbara Fiammeri? Piuttosto di dimostrare il disamore e il disinteresse ormai nei confronti della politica? Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Ma diciamo che non è un dato nuovo, perché anche la scorsa, in occasione della scorsa tornata elettorale in Sicilia votò meno del 50%, quindi non è un dato, come dire, rassicurante, ma non ci coglie impreparati. Per quanto riguarda l'astensionismo, abbiamo visto che anche alle elezioni, tendenzialmente anche nelle ultime amministrative, insomma, il partito dell'astensione si fa sempre più numeroso. Questo perché probabilmente, come tu dicevi poc'anzi, l'offerta politica non coinvolge molti cittadini non si sentono coinvolti dall'offerta politica che c'è in questo momento in Italia e quindi rinunciano a partecipare. Allora, dicevamo che però abbiamo sentito prima Musumeci, quello che ha detto, che è appunto un risultato di importanza, di rilevanza nazionale, però è banalmente così che l'unità ha premiato il centrodestra che è arrivato unito a queste elezioni, e invece la divisione ha penalizzato il PD, o c'è qualcosa di più complesso dietro, Barbara? Ma secondo me sì, anche in questo caso sì, capisco che è banale, però è così, perché sempre facendo riferimento alla Sicilia nel 2012, che si presentò con due candidati, uno era proprio Musumeci e l'altro era Gianfranco Miccichè, ottennero separatamente oltre il 40% dei consensi. Essendosi presentati separati, non vinsero, e vinse il centrosinistra con Crocetta. In questo caso a dividersi è stato il PD, il centrosinistra, che si è presentato con due candidati. Certamente sarebbero stati più competitivi un centrosinistra unito, che se la potesse battere con gli altri due candidati è tutto da vedere, però non c'è dubbio che così sono partiti sconfitti in partenza. Sì, infatti, tra l'altro sentiamo, prima abbiamo sentito Farone, lo risentiamo un attimo, tanto è breve il passaggio, Farone, che è poi siciliano e del PD, che ha detto che era in realtà una sconfitta annunciata, l'abbiamo detto diverse volte anche qui, no Barbara, che sì. La contesa sarebbe stata tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, sentiamo. È una sconfitta, diciamo, abbastanza annunciata, dal momento stesso in cui alcune forze politiche che con noi dovevano fare questo percorso, e anche alcune personalità, faccio riferimento a Grasso, a cui avevamo chiesto ad esempio di candidarsi a Presidente della Regione, hanno fatto un passo indietro, hanno deciso di fare un percorso diverso. Noi già sapevamo che la situazione era abbastanza compromessa e che serviva un miracolo. Forse è per questo che Renzi non si è molto, diciamo, speso e presentato lì in Sicilia, specie negli ultimi giorni, Barbara. E poi in questo modo lui rimane azzoppato da questa sconfitta? Ma allora, sicuramente Renzi si è tenuto alla larga per evitare di intestarsi la sconfitta. Per quanto riguarda la sua debolezza oggi, certamente una sconfitta di queste dimensioni non lo aiuta, e probabilmente nel partito torneranno alla carica quanti chiedono da tempo al segretario di essere meno autosufficiente, di guardare a una coalizione più larga e di aprire a sinistra e al centro, ma togliendo la presenza ingombrante della premiership di Renzi. Questo lo vedremo nelle prossime settimane, ma certamente una riflessione su questo aspetto nel Partito Democratico è aperta e non da oggi. Senti, invece, scrive questo ascoltatore Antonio, nessun grillino ha ancora denunciato fantomatici brogli e manipolazioni del voto strano. In realtà no, hanno detto che questa vittoria è contaminata dagli impresentabili e anche per colpa dei media. Sentiamo a questo proposito di Stefano, deputato del Movimento 5 Stelle. Sono dati preoccupanti, sinceramente. Intanto l'exploit di Musumeci a Messina, che va oltre il 50, se ho capito bene, dimostra quanto l'influenza di Francantonio Genovese sia ancora forte in quel territorio, dove, guarda caso, è stato candidato il figlio 21enne, che pare si appresti a essere il candidato più votato di tutta la regione. Va bene, le sue qualità saranno anche eccezionali, ma a 21 anni, a prima elezione, prendere tutti questi voti è un po' strana come situazione. E poi quella di Catania, che parla di 100 presidenti di seggio che si sono dimessi prima del voto, e voci dicono per pressioni subite. Allora, ci dai il tuo commento, la tua risposta a questo che ha detto Di Stefano del Movimento 5 Stelle dopo la viabilità, cara Barbara? Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, siamo in collegamento sempre con la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Barbara, hai sentito Di Stefano, deputato del Movimento 5 Stelle, che dice in realtà no, l'accusa è questa vittoria di Musumeci è stata in qualche modo contaminata dagli impresentabili, in sintesi. Ma allora, diciamo che la distanza tra Musumeci e Cancelleri è ampia e come dicevo prima anche alle precedenti tornate elettorali, cioè il centrodestra in Sicilia è sempre stato il dominus, non ha vinto quando appunto si è presentato diviso, quindi i brogli, se ci sono stati, non penso che possano essere stati così importanti da determinare la vittoria del candidato del centrodestra. C'è da dire però che queste elezioni confermano, come dire, un arretramento del Partito Democratico e della sinistra nel suo insieme, perché da un lato ha perso certamente Renzi e appunto dicevamo che non ci ha messo la faccia, ma hanno perso anche Bersani e D'Alema, che avevano puntato su Fava e che invece sono rimasti praticamente il candidato di MDP, ha preso gli stessi voti che aveva preso nella precedente tornata quando si era candidato in modo autonomo, perché era già candidato nel 2012. Quindi è una sconfitta dell'intero centrosinistra, vuol dire che anche in questo caso la loro proposta politica non viene compresa dall'elettorato e che non vota né per gli uni né per gli altri. Barbara, abbiamo ancora proprio poco meno di un minuto, giusto per fare un po' d'accenno ad Ostia, dove ci sarà il ballottaggio 19 novembre tra la candidata dei 5 Stelle Giuliana Di Pillo, che è la più votata, e poi subito c'è Monica Picca di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. È vero che la vera vincitrice è Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, perché è Musumeci è un suo uomo e anche qui a Ostia, diciamo, al suo peso? Beh, sì, diciamo che anche la Picca è una candidata della Meloni, certamente Musumeci è uomo della destra storica, viene dalla stessa parte politica della Meloni, prima il Movimento Sociale, poi Alleanza Nazionale, quindi la storia è quella. Sarà interessante ad Ostia, a mio parere, perché Forza Nuova, che ha Casa Pound, dici? Sì, Casa Pound, scusate, che ha presentato la confusione. Un candidato omogeneo, che ha ottenuto, mi sembra, attorno al 9%, potrebbe determinare la vittoria dell'uno o dell'altro, Lago, cioè della Pillo o della Picca. In passato Casa Pound aveva dato indicazioni per votare Raggi. Vediamo cosa succede replicherà questa volta, il 19 novembre. Grazie Barbara Fiammeri, intanto. Ciao cara Barbara. Ciao. Ora invece ci spostiamo subito a Torino, dove per la tragedia di Piazza San Carlo dello scorso 3 giugno, vi ricordate, sono indagati la sindaca Appendino e il questore Sanna. Filomena Greco per noi da Torino. Ciao Filomena. Sì, ciao, buonasera a tutti voi. Sì, oggi la notizia è quella degli avvisi di garanzia per l'inchiesta su quei fatti. Sì, erano attesi, diciamo, da qualche giorno, se ne parlava già dalla settimana scorsa, erano nell'aria, oggi c'è stata la consegna delle avvisi di garanzia vere e proprie. Insomma, in questo elenco di persone indagate per quei fatti figurano, come dicevi, la prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, che a metà mattina lei stessa ha confermato con un tweet di aver ricevuto la comunicazione, ribadendo di essere pronta naturalmente a collaborare con la magistratura, e poi il questore di Torino Angelo Sala, che invece per tutta la giornata, da cui invece per tutta la giornata non è arrivata alcuna conferma o smentita di questo fatto. In totale però sono 20 le persone sotto indagine per quegli eventi tragici. Parliamo, lo ricordiamo, della finale di Champions League, Juve Real Madrid. Venne proiettile. Morì una persona e più di 1500 feriti, alcuni anche molto gravi. Alcuni anche molto gravi. Infatti i fatti sono molto molto gravi, quasi, diciamo, incredibili, senza precedenti per Torino. Pochi sono stati anche gli eventi simili nel resto d'Italia, 1500 feriti, quindi un numero molto alto, alcuni condanni gravi, come dicevi. Una ragazza di 26 anni, per esempio, è entrata in coma e poi ci ha messo dei giorni per uscirne, una donna è rimasta completamente paralizzata, un'altra donna, Erika Pioletti, è quella che è la vittima di quei fatti, non è riuscita più a risvegliarsi dal coma ed è morta dopo pochi giorni a causa di un arresto cardiaco provocato dallo schiacciamento del torace proprio in quella piazza. Gli avvisi di garanzia praticamente hanno raggiunto l'intera catena di comando che ha riguardato quei fatti, quindi tutti i funzionari e responsabili che avevano a vario titolo, che si erano a vario titolo occupati dell'organizzazione e della predisposizione dei sistemi di sicurezza, quindi parliamo del comune con due funzionari e l'ex capo di gabinetto raggiunti dagli avvisi di garanzia, l'ex capo di gabinetto, l'ex perché nel frattempo si è dimesso perché è intercettato mentre chiedeva all'AD dell'azienda di trasporto di Torino, nel frattempo sull'orlo del dissesto finanziario, di togliere una multa ad un suo amico, quindi la situazione dal punto di vista politico finanziario insomma abbastanza delicata in questo momento. Ricordiamo tra l'altro che Codacons oggi ha detto chi era in piazza San Carlo chieda l'indennizzo, quindi adesso vediamo come procede anche questa cosa e poi l'inchiesta, per il momento appunto un avviso di indagine, poi capiamo se effettivamente si riuscirà a arrivare alle responsabilità, no Filomena? Sì, è così, le indagini sono in corso e una cosa importante nel corso della giornata è stata il chiarimento arrivato direttamente dalla Procura, dal procuratore capo di Torino, Armando Spataro, che sta, lo ricordiamo, direttamente coordinando questa inchiesta proprio per i numeri, la delicatezza insomma del tema. Nella sua nota dice due cose importanti, aggiunge un elemento alle cose già venute fuori insomma nei giorni scorsi, le ipotesi di reato al vaglio sono l'omicidio colposo, le lesioni colpose, ma anche il reato di disastro colposo. Insomma, grazie Filomena Greco da Torino, ci dobbiamo lasciare perché poi ci risentiamo brevemente.